Giovani e Parole. Benvenuti a Giovani e Parole, uno speciale che stiamo realizzando, che abbiamo realizzato al Salone del Libro di Torino. L'idea è proprio questa, di mettere al centro per un'oretta le parole e i giovani, il rapporto che c'è tra giovani e parole. Con noi alcuni addetti ai lavori, quindi le persone che porteranno le parole, ma ci sono anche i giovani. Diamo il benvenuto ai ragazzi della seconda e terza G dell'Istituto Professionale Giulio di Torino. Ciao e benvenuti. Gente di parola, cioè se uno dice la parola, tu, so che il tuo nome d'arte è Reus, vero? Sì. Come mai questo nome d'arte? Mi è venuto in mente all'improvviso, un'illuminazione. Ma tu sei uno che gioca con le parole? Allora, faccio canzoni. Scrivi, canti, ti diletti? Scrivo. Ok, ci piace chi crea le parole. Do invece il benvenuto anche agli ospiti, Alberto Rollo, direttore letterario della Feltrinelli. Ciao Alberto, benvenuto. Buon dì a tutti. La cosa bella, oggi scopriremo anche le professioni che ruotano attorno alle parole, professioni dal sapore antico, sembra quasi quello di Alberto, invece professione dal sapore moderno, quello di Anna Masera, che è social media editor della Stampa. Ciao Anna. Ciao, buongiorno a tutti. La Stampa noi la conosciamo, è un quotidiano cartaceo, e tu di cosa ti occupi all'interno di questo quotidiano? Io mi occupo di Facebook, di Twitter, di Google Plus, di Pinterest, di Instagram, di insomma tutti i social networks possibili e immaginabili. Ne stiamo scoprendo tanti, adesso stiamo cercando di fare delle cose con Storyfy, con Tumblr, insomma. Sono tutte parole che voi conoscete, spero, no, che voi ragazzi? Conosciate. Sì. Ecco, e il fatto che ci sia una professione e una professionalità dietro a questi social network già è una bella novità. Andremo a vedere anche il valore delle parole all'interno di queste professioni. Alberto, inizio con te. Tu di professione di fatto non realizzi libri? Sarebbe meglio di no. Cosa fai? Scrivere storie. Ecco, mi occupo di storie, di quelli che scrivono storie, e cerco di capire le storie che ci riguardano. E che ci riguardano tutti, non soltanto che riguardano gli editori, ma che riguardano quelli che leggono. Ecco, perché mi sembra di avvertire in questi tempi che c'è più una disponibilità a scrivere. Quanti qua scrivono? Tantissimi. Vedo già due su tutto questo gruppo, sono già un'enormità. E quanti leggono? Non lo sappiamo, ma io spero tanti. Ecco, la mia professione è quella di cercare storie che valga la pena leggere. Vedete come scandisco bene le parole, perché è molto importante, che vale la pena leggere, da cui siamo emozionati. Queste sono le storie, e quindi anche le parole che le reggono. Le parole sono costruzione, sono emozione. Reus, scusa, adesso ti abbino su, ti ho un po' come tu scrivi canzoni. Scrivere canzoni, secondo te, è come scrivere un libro, nel senso il valore che tu dai alla parola? Hai riconosciuto cose in quello che ha detto Alberto? Una canzone è diversa, secondo me, da scrivere un libro, perché una canzone riguarda un contesto, poi è fatta in rima, è diverso comunque. Ma tu quando... da un romanzo è diverso perché è fatta in rima. Quando vuoi scrivere qualcosa, hai qualcosa da raccontare, hai qualcosa da dire, cioè parti da quello? Sì, parto da argomenti che mi premono, nel senso che ritengo interessanti per me. Poi se piacciono bene, se no pazienza. Alberto, e invece ribalto a te la domanda, le parole usate nella narrativa hanno un suono? Accidenti, se hanno un suono. Ci sono scrittori come Maurizio Maggiani che sono abituati ad andare in giro e prima ancora di scrivere raccontano la storia e portano, lui riesce a portare in questi suoi giri, in questo suo raccontare oralmente una storia, come un tempo, come una canzone, esattamente come una ballata, ecco, riesce a portare il suono del che fanno le parole dentro la narrazione. Pum! Cadono e fanno un suono. Ecco, e se pensiamo alle 200, alle 300 pagine di un libro, ma anche ai 2, 3, 4 minuti di una canzone, sembra un tempo lunghissimo per raccontare cose, dove le parole possono essere scelte, possono essere giocate, possono essere messe in sequenza. Poi invece arriva Twitter, e in 140 caratteri, quindi è niente. devi dire cose, devi scrivere, puoi emozionare, cioè tutto questo si può fare anche con questa sintesi, Anna, e, sì. E la ricerca della sintesi è uno sviluppo a trovare parole e o parole nuove? Sì, oramai Twitter si è dimostrato come un luogo dove la gente si diverte a trovare nuove parole, a sintetizzare i loro pensieri e a sapersi esprimere in maniera molto stringata, ma anche divertente e forse anche più incisiva che con tante parole. Noi abbiamo fatto, abbiamo lanciato con la stampa, abbiamo lanciato un gioco qui al Salone, l'hashtag su Twitter era Primavera Digitale perché è il tema del Salone, e abbiamo chiesto a tutti i partecipanti del Salone di mandarci un tweet in 140 caratteri con l'hashtag Primavera Digitale, e per dire che cosa secondo loro significa la Primavera Digitale o quali pensieri li ispira questo Salone. E in premio c'erano 50 copie del libro di Gramellini e ci sono arrivati tantissimi tweet, e tra i tweet carini che sono arrivati ce ne sono alcuni tipo: sarà anche Primavera Digitale con l'hashtag, ma fa un caldo analogico. Questo primo giorno faceva un caldo terribile ed è un sentimento carino e dice tanto in pochissimo. Un altro era: sapete che c'è? Meglio una primavera digitale in questa mattinata di sole e non di sole. La primavera araba in Italia la facciamo con Primavera Digitale. Più cultura, più libertà, più potere, la ricetta è semplice e piacevole. Primavera Digitale, Cota mica ascolta, guarda sotto il banco, ci avrà un Game Boy? Qualcuno di voi usa Twitter? Tu, come ti chiami? Andrea. Andrea, e qual è la difficoltà nell'utilizzare Twitter? Nel senso, questi 140 caratteri vuol dire che è pochissimo o è tantissimo? Dipende, se sei abituato a scrivere tanto, 140 caratteri sono pochi. Poi dipende da come cosa ti vuoi esprimere, il concetto che vuoi esprimere in quel momento. Ci può raccontare una storia, secondo te, in 140 caratteri? Volendo anche sì. Hai mai provato? No. Alberto, risposta secca, si può raccontare una storia in 140 caratteri? Certo, perché no? Certo, una storiella. Una storiella però. Mi sono innamorato, è una storia. È vero, è vero. Torniamo fra pochissimo, ci fermiamo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, Giovani e Parole, dal Salone del Libro di Torino. Giovani e Parole. Giovani e Parole oggi su Radio 24 con questo speciale dal Salone del Libro di Torino. Questo rapporto strano, bello, divertente, si può raccontare una storia in 140 caratteri. Io ti amo è una storia, dice tutte, sono pochissime lettere. Però le parole, stiamo parlando dell'uso delle parole, del come conoscerle, del come addomesticarle, perché alla fine è un po' questo, no, Alberto? Le parole vanno di fatto addomesticate nel senso bello del termine, vanno comunque guidate, vanno scelte, vanno raccolte, ma questa cosa, visto che abbiamo dei ragazzi, loro frequentano le scuole superiori, questo uso della parola si può insegnare? È una cosa innata? O se uno vuole appunto diventare un giocoliere delle parole, c'è una strada, c'è una direzione, come si fa? Due cose: innanzitutto bisogna abitare dentro il linguaggio, e per abitare dentro il linguaggio bisogna sapere da che parte vado, che cosa uso, e questo fa parte, credo, della formazione che voi stessi state facendo a scuola, non scuola, i giornali, la televisione e tutti gli strumenti. Quindi conoscere le strade ricche di significati. Questo è il primo momento. Il secondo momento, che è più creativo, è tutta un'altra storia. Un po' si può imparare, bisogna andare a un'officina seria, anche quando si inventa. Anche prima ho sentito un'espressione forse di Reus che diceva: ma mi è venuta così, un'illuminazione. Illuminazione, giusto? Illuminazione, ecco. Illuminazione. È vero, ci sono le illuminazioni, ma non vengono le illuminazioni se non hai le lampadine. Allora, le lampadine sono la scuola che noi facciamo, scuola interiore, scuola esteriore, per sapere da che parte andiamo. E da lì poi si va verso le ampie praterie delle storie. Le parole si possono usare, le parole si possono insegnare. Lo chiediamo a un professore e scrittore di Hamlet. Benvenuto ad Alessandro D'Avenia. Ciao Alessandro. salve, benvenuti. Questo collegamento da scuola nell'ora di buco è veramente commovente. Cioè, è la tua ora di pausa o stai marinando l'ora di lezione? Hai detto ai tuoi alunni pausa, vado in bagno? Collegati col salone da scuola è veramente divertente. Ma per i tuoi alunni tu adesso sei ancora il prof o sei lo scrittore diventato famoso grazie all'uso delle parole? No, io sono a tutti gli effetti il prof. Anzi il professore, come amo farmi chiamare con la parola per intero, in modo che si ricordi, a proposito di parole, che fa questa professione, professa qualcosa, che è appunto una specie di religione delle parole, almeno per quello che insegno io. E poi quando i ragazzi ti vedono tutti i giorni, sai, la vita quotidiana non aiuta a diventare idoli di nessuno, perché vedi i difetti delle persone, quindi sono a tutti gli effetti ancora il loro professore. Tu insegni le parole, che detta così sembra una domanda banale, però fai lezione proprio sulle parole, sull'uso delle parole, sull'amore nei confronti delle parole, o è difficile, o non è la scuola l'ambito adatto, o nella scuola non c'è tempo, non c'è spazio per fare questo? Ma guarda, io credo che sia l'unica cosa che valga la pena fare a scuola nelle materie che insegniamo. Prima voi vi chiedevate se era possibile raccontare una storia in 140 caratteri. Io ti assicuro che una delle biografie più belle, che è quella di Pia dei Tolomei, è scritta in 3 endecasillabi. E allora vuol dire che lo spazio ristretto può anche essere una sfida, un aiuto. E il divertimento è proprio quello, vedere come i grandi autori riescono a regalarci quelle 2, 3, 4 parole, ridando loro quella profondità che l'uso quotidiano toglie alle parole. Mm-hmm. E quindi è bello vedere appunto come un Dante usa un registro stilistico diverso, prima usa Vecchio, poi userà Veglio, poi userà Sene nel Paradiso, far vedere che appunto in ogni parola c'è un'estensione che va dall'inferno al paradiso, e lì sta a noi un po' il giocare con le parole. È bellissimo per esempio giocare sulla parola Facebook e far vedere loro che ha a che fare con il termine persona, che era quello che i latini usavano per indicare la maschera. Allora lì si possono aprire come appunto una cesta piena di giochi, e ogni volta ne puoi tirare fuori uno, però partendo dall'uso quotidiano e riscoprendone poi tutta la profondità. Prendo al volo un ragazzo, chi è che scrive su Facebook per esempio tutti i giorni tra di voi? C'è qualcuno che... Tu come ti chiami? Francesca. E cosa scrivi su Facebook? Chatta con gli amici. Chatti con gli amici, e nel chattare con gli amici, quindi nella comunicazione normale, stai attenta alle parole che usi o non importa? L'importante lì è che arrivi il messaggio. No, non importa, l'importante è che arrivi il messaggio. Ecco, Alessandro, invece questo Facebook, la chat, può diventare un allenamento anche questa, la scrittura, o è tutto un altro mondo? Dipende appunto. Oggi una delle fatiche che affrontiamo noi insegnanti con i ragazzi è proprio questa necessità di insegnare loro la differenza di registri, perché appunto l'elloquio quotidiano entra prepotentemente nei loro scritti e loro non avvertono neanche più la differenza tra un registro e l'altro. Quindi va benissimo come gergo, come comunicazione diretta, rapida, come abbiamo fatto tutti quando avevamo la loro età, ognuno ha usato il suo gergo e gli strumenti che avevamo a disposizione. La fatica è quella di far percepire poi che ci sono registri diversi. Questa è una sfida aperta. Io con i ragazzi lo vedo e credo che sia una novità del nostro tempo, perché comunicano molto di più e quindi sono molto più abituati a usare quel tipo di registro. Forse un tempo il gergo che usavamo era meno, aveva meno possibilità di strutturarsi, perché veniva usato di meno, solo in circostanze veramente solo orali, solo di parlato quotidiano. Grazie davvero ad Alessandro. Ricordiamo Bianca come il latte, Rossa come il sangue e Cose che nessuno sa, i tuoi libri, ma soprattutto il portale, anche il sito prof2.0.it per conoscerti e frequentarti. Ciao e buon lavoro, torna in classe adesso. Ora a te un saluto a tutti, ciao. Ciao. Invece io voglio tornare direttamente da Anna Masera, perché stiamo parlando di questo uso delle parole. Tu, Anna, fai la giornalista da quanti anni? Mi vergogno un po' a dirlo, ma da 30. da 30 anni fai la giornalista, quindi con le parole racconti cose, e in questo anno e mezzo di fatto hai dovuto cambiare il tuo lavoro, cioè anche tu hai dovuto fare una sorta di scuola, perché scrivere un articolo in 100 righe è ben diverso che dare un'informazione in 140 caratteri. Sì, è cambiato tantissimo, anche perché sono passata dal giornalismo del magazine, dove tipo Panorama, per intenderci, 20 anni fa, quando gli articoli erano lunghissimi, anche Fortune Italia, che era un magazine, un mensile, dovevo fare articoli di 10 cartelle nel mensile. Adesso oramai gli articoli sono cortissimi anche per il giornale cartaceo. Non parliamo, internet non ha un problema di lunghezza, è proprio un linguaggio diverso, però, per cui su internet io scrivo nel mio blog e è tutta una scrittura fatta di links, di richiami ad altre cose, di rimandi, per cui per forza di cose il linguaggio è molto più colloquiale, molto più diretto a un pubblico che so che mi ascolta, come se fosse, ci fosse una specie di diretta come adesso la radio, per cui si mischia, è un mezzo veramente oramai contaminato dai cross media, per cui ci sono le foto, ci sono i video, ci sono gli audio dentro il mio articolo, e quindi alla fine diventa per forza un linguaggio diverso. E adesso con i social networks non parliamone, con Twitter, quando facciamo le dirette Twitter, appunto, io scrivo SMS di fatto. E sono più le parole nuove che hai dovuto imparare per essere sintetica, o sono più le parole che hai perso perché ti sei poi accorta che erano inutili orpelli, e quindi se devi essere sintetica se ne può anche fare a meno? Beh, ho imparato a sintetizzare molto i pensieri, per cui ho imparato a fare a meno, a essere più essenziale, a fare a meno, è un po' come scolpire, no? Per cui vai all'essenza delle cose. Detto questo, ogni tanto mi manca la possibilità di scrivere tanto, di usare tante parole, di dilungarmi, di fare degli incisi. Ho visto su Inutili Orpelli, Alberto Rollo, ci sono parole che sono inutili orpelli? Sì, o ogni parola ha dignità di esistere? Nessuno è un inutile orpelli, un inutile orpelli. Tutto serve, okay. Tutto. Perfetto, va bene. Giovani e parole. Giovani e parole, speciale dal Salone del Libro, Radio 24, in questo bel incontro con le parole, con i giovani, con me i ragazzi dell'Istituto Professionale Giulio di Torino, che sono qua in questa lezione radiofonica. Però tutto bene, cioè, vi piace la radio da vedere? È strano, è un po', è difficile la radio da vedere, perché non, insomma, le parole per fortuna hanno dei suoni, ma hanno poche immagini. Di giovani e parole, qui al Salone del Libro se n'è parlato tanto, grazie anche a un progetto ideato da Andrea Baiani, che ha animato il Bookstock Village, tanti giovani che in queste giornate hanno curato un blog in collaborazione con La Stampa, anche c'era una pagina ogni giorno con una redazione attiva qui di giovanissimi, però sono andati oltre, sono andati alla ricerca di parole nuove, hanno forse inventato parole nuove. Con me due protagoniste di questo progetto, do il benvenuto a Martina e a Federica. Ciao. Ciao. Allora, avete inventato parole, ho capito bene? Sì, esattamente. Praticamente in questi mesi precedenti alla fiera abbiamo inventato 10 parole nuove che secondo noi rispecchiavano il mondo in cui viviamo e che necessitavano di una parola apposita, diciamo. Scusa, ecco, noi c'è Alberto Rollo, che è direttore letterario della Feltrinelli. Vale inventare parole nuove? Cioè, se non esiste una parola per raccontare quella cosa, posso inventare una parola nuova? Assolutamente sì, è la mia risposta, sì. Questo è fantastico. Questo, sì. Ragazzi, vale anche a scuola per i temi, sappiatelo che... Ma lo fanno regolarmente, credo, inventare parole. E qual è stato il percorso per inventare parole nuove? Beh, siamo partiti soprattutto da dei concetti che ci stavano particolarmente a cuore, e lì ci abbiamo lavorato sopra per trovare la parola giusta. Mm-hmm. Faccio un esempio, certo. Penso per esempio a gioventù, che è una parola che ci ha fatto anche molto ridere. Che dovrebbe essere la vendita della gioventù. In pratica, quando viene presentato il giovane in quanto tale per vendere o un'idea politica o un oggetto, quindi proprio sfruttare l'idea di giovane, sfruttare diventa l'idea del giovane. Fantastico. Federica, altre parole che... Beh, un'altra parola che mi viene in mente è rinuncianesimo, che è una parola che mi sta molto a cuore perché poi insomma... È una religione quasi. Sì, esatto, e abbiamo fatto una fantastica conferenza con Nicola Gardini, che è uno scrittore che anche ha molto a cuore questo tema. Il rinuncianesimo è un po' la religione del lasciar perdere, cioè un qualcosa che ci viene inculcato fin da quando siamo piccoli e che ci spinge a dire non scegliere quel percorso di vita, quel percorso di studi, perché non ne vale la pena, sarebbe una perdita di tempo. Quindi è proprio una religione quasi, un mantra che ci viene detto ogni giorno dalla società, dalla famiglia, a scuola, e che ci spinge a dire no, non ne vale la pena. Fantastico. Tra l'altro, Anna Masera, social media editor della Stampa, in Twitter l'hashtag un po' racchiude questo concetto di inventare parole nuove o comunque abbinamenti nuovi di parole attorno alla quale far convogliare dei concetti o degli interessi comuni, vero? E certo, per sintetizzare lo slogan, il concetto, si attaccano le parole anche insieme, per cui quando si, ad esempio, su Primavera Digitale c'è l'hashtag alternativo, altro che primavera, tutto attaccato, piuttosto che inverno, perché hanno fatto è inverno non primavera, cioè hanno inventato degli hashtag alternativi per esprimere il concetto di dissenso a questo hashtag. Con le parole si può comunicare, con le parole si può giocare, con le parole si può divertire, ma con le parole anche si può cantare. Questo ce l'ha insegnato Enzi. E allora 1, 2, 3, speed! Benvenuto in questa Italia del finto perbonismo, dove abbiamo ereditato fascismo e razzismo, dove chiamiamo il marocchino Vukumpra, ma poi andiamo volentieri a scassarci dei kebab. In Italia qualcosa non va, un nero viene chiamato negro, è normale, fino a quando non fa due gol con la maglia della nazionale. Questo problema qualcuno me lo deve spiegare. A me sembra che vada male e non capisco perché, delle volte mi intristisco, ascolto della musica che fanno solo i negri, per questo sono negro se ti compri il mio disco. Non parlare perché questo è hip hop e caccio solamente flow. Enzi è il vincitore di Spit, programma di MTV che ha caratterizzato un po' la stagione televisiva. Questo è il freestyle, questo è un uso delle parole diverso dalla scrittura, diverso anche dai social network, così a pelle verrebbe da dire un modo di usare le parole forse senza pensarci, si è quasi guidati dall'istinto, dalla velocità, dalla ricerca della rima. Ciao Enzi, benvenuto, ben trovato. Grazie a voi, grazie mille per lo spazio. Beh, innanzitutto è molto interessante tutto questo discorso dell'inventarsi delle parole, no? Al di là degli errori grammaticali che si possono fare, però è molto interessante anche gli spunti delle ragazze di prima che parlavano spunto di unire le parole, una cosa che nel rap si utilizza molto, soprattutto nel rap più nuovo. Mi vengono in mente un sacco di esempi anche di altri colleghi, e quindi è molto interessante. Per quanto riguarda invece il freestyle, inventarsi delle parole no, però inventarsi è un discorso e quindi improvvisarlo è la base, il succo di quest'arte, il succo di questa capacità di poter mettere in rima delle parole molto velocemente su una base. Ovviamente poi il filo conduttore di tutto questo è il saperle rappare, il saperle cantare, però si avvicina molto al discorso che stiamo affrontando, quindi ecco. Ma per te il valore di una parola sta nel contenuto o sta nel suono che ha? Beh, diciamo che nel rap è un'unione delle due cose, perché una parola di per sé ha un grande valore, una grande forza, anche se viene semplicemente scritta. Però il saperla rappare bene a tempo, il saperla valorizzare anche col timbro vocale, e poi è la famosa ciliegina sulla famosa torta. Quindi la parola è forte di per sé, quando viene rappata in un certo modo acquista un valore intrinseco maggiore, quindi secondo me è un'unione delle due cose. Ecco, ma tu tutte le parole che usi quando canti le usi anche nel parlare? Diciamo che penso che un po' di deformazione professionale ormai ci sia. Delle volte ogni tanto la gente mi stoppa e mi dice: cavolo, non rappare mentre parli, cerca di non essere così fluido che non ti seguiamo. In realtà è una cosa che ho da sempre, il fatto di essere una persona loquace, ecco. Però appunto il flusso delle parole e del saperle poi mettere in rima, e poi quello che fa poi in realtà appassionare la gente a quello che facciamo, perché un conto è discutere, un conto è parlare, un conto è discutere e nello stesso argomento rappando, ecco, cioè è il next step della faccenda. Ci sono un po' di ragazzi qua con me, so che qualcuno aveva anche qualche domanda da porti. Come ti chiami? Nicolò, Bella Enzi. Bella Enzi, okay. È perché tra di voi è sempre bella tutto, vero? Sì, sì, sì. Ti volevo chiedere. Bello tutto, sì. Prego. Ti volevo chiedere, perché definisci, sì, Torino la Black City? Ma Black City ci piaceva, abbiamo soprannominato Torino Black City, la città nera, nel nostro primo album dei One Mic, che risaliamo al 2005. Spesso quando magari andavamo in trasferta, anche da fuori, a parte lo splendore degli anni 90 della nostra scena rap, perché poi devi contestualizzare la parola nell'ambiente del rap, pochi conoscevano la città nel suo splendore. Molti mi hanno sempre detto: ma è una città molto cupa, una città molto grigia, una città molto nera. E allora noi, un po' giocando su questa cosa della black music, l'abbiamo soprannominata la Black City. Adesso probabilmente, come diciamo in una canzone, non trovi Torino ma trovi Black City scritto sulle cartine, nel senso che è diventato un po' il nostro leitmotiv. Molti artisti, anche quando vengono a suonare a Torino, parlano di Torino come la Black City. A noi fa piacere più che altro perché lo contestualizziamo molto nell'ambiente dell'hip hop, della black music, ecco, quindi per noi è un valore. Spero che non ti sia offeso, ecco, non so se la domanda arrivava là. Nicolò, ti sei offeso? No, era così, era proprio una curiosità. Enzi, credo che in parte la tua vita dopo questo programma televisivo, comunque adesso magari cambiata non è, però ha preso altre direzioni. Sei forse in uscita, sì, con un video, con cosa sei, sì, in uscita? Sì, allora, proprio domani uscirà il video ufficiale dell'unico singolo che all'interno del progetto di Freestyle Roulette Mixtape, che è un concept album dedicato al freestyle. Quindi, a parte questo singolo, l'intro e l'outro, ci sono dei freestyle inediti, quindi è la prima volta che in Italia viene affrontato un progetto del genere, dove su delle strumentali inedite di produttori italiani, tra cui Bassi Maestro, Freeze the Cat, Second Roof, Vox P e tanti altri, ci sono proprio dei veri e propri freestyle. Quindi non abbiamo scritto i testi, ma siamo entrati in studio e abbiamo rappato un po' di sessioni, abbiamo tenuto le migliori. Perfetto, grazie davvero Enzi. Di ospiti, quindi insomma un progetto unico nel genere. Grazie davvero, ciao, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao. Beh, Alberto, e ti ho visto che Alberto Lollo, la Feltrinelli, che stavi contando le parole inglesi che abbiamo detto in questi ultimi minuti. Si parla di parole giovani e tantissimi termini inglesi. Per esempio, tu pensavi di essere a Torino, invece sei solo nella Black City. Black City, assolutamente. Credo che l'influenza dell'inglese, o meglio, che noi siamo di fronte a una lingua mista, in cui non è più l'inglese quello che usiamo per dire Black City, ma qualcosa che gli somiglia, perché poi parlare inglese è tutto un altro discorso. Ma è interessante, quantomeno, questo crogiuolo di linguistico in cui ci muoviamo, magari addirittura alcune cose vengono dal dialetto, alcune cose vengono dall'inglese. Per quanto riguarda l'inglese, l'aspetto veramente decisivo è l'uso di verbi, phrasal verbs, quelli che oppure di sostantivi o di nomi di cose, di persone, per trasformarli in verbi. Ad esempio, Fabio volami è un modo di dire per trasformarmi in quella roba lì. Berlusconami, sì. Esattamente, in inglese si può fare nelle canzoni, anche nella letteratura esiste questa modalità. Sono segni. Un grazie a Alberto Rollo, che salutiamo anche perché so che è un impegno e devi correre via. Noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con Giovani e Parole. Giovani e Parole. Giovani e Parole, qui dal Salone del Libro, questo speciale sul rapporto tra i giovani e le parole. Diamo il benvenuto, c'è stato un cambio qui ai microfoni, ad Andrea Valente, scrittore. Ciao Andrea. Ciao. Non solo scrittore, è una persona che porta i libri, la letteratura, la parola, il giocare con le parole nelle scuole, anche nelle scuole superiori, leggevo su Twitter, perché si comunica così. Esatto. Che si è appena ero sabato a Cuneo al liceo Pellico. E di cosa hai parlato? Ho parlato, innanzitutto ho ascoltato, perché ai ragazzi piace parlare, piace esprimersi. Non so se scrivono, ma hanno tanta voglia di parlare, di raccontarsi. Io ho parlato di una mia esperienza che ho fatto qualche anno fa in un carcere minorile, e che a me ha toccato molto, infatti da allora me la porto dietro, anche se non ci vado più, un po' per mia fortuna, perché non è facile. E abbiamo parlato del futuro, di finestre da aprire, da cui volare via per il proprio futuro, proprio per l'idea del rinuncionesimo, nel senso, quando qualcuno ti dice non fare qualcosa, forse vale la pena provarci lo stesso, anzi. Mm-hmm. Andrea, tra l'altro, tu hai scritto tantissimo anche per i ragazzi un po' più piccoli, e però c'è questo tuo personaggio che è la pecora nera, che è un personaggio che non ha età, che è proprio questo, no? È il ragazzo che non rinuncia, il ragazzo che va controcorrente, il ragazzo che non ha paura di alzare la testa e dire la propria. È proprio esattamente questo, cioè tutto ciò che scrivo, anche se scrivo per bambini, anche se il personaggio lì dentro non c'è, il concetto c'è lo stesso. E non è il ragazzo che va contro corrente, è la corrente che va contro il ragazzo, e quindi quando uno se ne accorge un po' si tiene fisso e va dove vuole, e a volte arriva, anche anzi spesso arriva. È difficile far domesticare le parole ai ragazzi, le padroneggiano, hanno voglia di, perché no, la parola che fa, insomma, chiedo scusa per il gioco, la ridondanza, però un po' spaventa, ma perché subito fa pensare alla scuola, a un voto, a un giudizio. Sì, però se ci si gioca diventa un pallone. Ti faccio un esempio proprio che mi è successo sabato. Abbiamo parlato di isolamento, parlando di carcere, che ovviamente contiene la parola isola per tutti. In realtà no, contiene la parola lamento, che è molto più interessante, molto più vero, anche pensando che l'isolamento infatti è qualcosa di... che non piace. E allora andare a cercare dentro le parole altre parole, e diventa un gioco interessante, divertente e costruttivo, e questo a me piace farlo con loro, e diventa molto diverso dall'insegnamento. La forza della parola, la forza dirompente della parola, è una delle caratteristiche della scrittura di Henry De Luca, che forse adesso siamo in radio, non ve lo posso far vedere, però ha questa faccia bella, espressiva, questi solchi che raccontano storie. Henry De Luca è qua con noi, ciao Henry. Ciao. Come si misura la forza di una parola? La misura il lettore, se gli pesa, se lo convince, se lo gli solleva il pensiero, la misura lui, insomma. A te le parole hanno sempre incuriosito, ma anche le parole di altre lingue. Cosa cerchi nelle parole? Cerchi un suono, di cui abbiamo parlato tanto, cerchi un contenuto, cerchi un'opportunità? Mi piace che mi sono andato a frugare le parole di altre lingue per inseguire i poeti. Ecco, volevo andare a inseguire i poeti che mi sono piaciuti proprio nelle loro tane, alla loro fonte della lingua, e quindi mi sono incuriosito di quello. E conoscere altri modi per nominare le risapute cose, insomma, modi diversi con cui i popoli nominano il sole o il vento, questo mi tiene compagnia, insomma, mi ingrandisce la parola in italiano. Qui davanti a me ci sono dei ragazzi che usano le parole a scuola, usano le parole per parlare, usano le parole per comunicare. A volte... E nessuno insegna loro, nessuno dice loro, credo che le parole sono anche fonte di godimento. E a te, cioè, quando è che trovi piacere nel leggere, per esempio, quello che hai scritto? Quando è che una sequenza di parole ti fa godere? Io quando scrivo storie sempre che hanno un tono di voce, c'è un racconto orale che si sta svolgendo, e dunque quando io ho acciuffato quel tono di voce, poi la scrittura viene abbastanza facilmente. Ma quello che succede con le parole per uno che le legge, è che uno che legge molto, che legge libri, è che lentamente diventa il padrone di quelle parole e non il cliente. Passa da uno stato di cliente in cui usa le parole che gli mettono in bocca gli altri allo stato di proprietario delle proprie parole, della propria lingua. Diventa, attraverso la lettura, ma involontariamente, senza un programma, senza un progetto, ma insomma involontariamente si diventa proprietari della propria lingua, e non ci si fa mettere in bocca le parole dagli altri. Insomma, quindi anche questa, no? È la forza della parola. Grazie davvero ad Henry De Luca, complimenti per tutti i tuoi libri anche qui al Salone, hai fatto delle attività bellissime. So che eri dalle parti di un ponte, però forse pioveva, hai fatto qualcosa sulla forza di gravità legata alle parole, vero? Sì, sì, ero a Ponte d'Ora ieri a parlare della spinta contro la gravità, della forza di contraddizione in natura contro la legge di gravità. Le parole sono più forti della forza di gravità, le parole possono volare. No, le parole servono a tenere compagnia al mondo. Grazie davvero, ciao Henry. Ciao. Grazie. Le parole che fanno compagnia al mondo, torniamo quindi alle parole inventate dai ragazzi del progetto. Qual era il nome del progetto, che l'ho già chiamato in 18 modi diversi? Non ha precisamente ecco un perché. Nome. Perfetto, quindi avevo ragione io. Un altro paio di parole che avete ideato, utili per la vostra sopravvivenza, per la nostra sopravvivenza. Secondo me una parola carina è ultramobilismo, che è anche, diciamo, abbastanza intuitiva. Vuol dire appunto che noi ci muoviamo velocemente, comunichiamo velocemente, anche grazie alla tecnologia, quindi spesso il tempo di pensare si riduce al minimo, insomma, in tempi brevissimi, perché dobbiamo sempre muoverci velocemente. Quindi è una parola che fa paura? Beh, dipende, insomma, dipende da che cosa pensiamo di perdere andando velocemente. Comunque l'importanza della consapevolezza, che alla fine è paura o piacere, però almeno esserne consapevoli. Federica? Ecco, un'altra parola che è indissolubilmente legata ai social network, che abbiamo inventato, è proiescenza, che detta così può sembrare un po' difficile, è la proiezione di un nostro falso sé, soprattutto appunto in tutti i social network, soprattutto Facebook, ecco, mi viene in mente, cioè l'immagine che noi vogliamo dare di noi stessi agli altri, ma che spesso non corrisponde a quello che noi realmente siamo. Quindi è proprio costruirsi una seconda, sì, terza o quarta personalità. Esatto, cioè costruirsi un altro sé che non corrisponde però a quello che noi siamo e che però noi amiamo dare questa immagine di noi agli altri. Anna, ti ho visto sorridere, è uno dei rischi, no, legati ai social network. Beh sì, direi che... Io effettivamente, quando mi chiedevi prima come mi trovo a cambiare tutti questi mezzi, a scrivere sui vari mezzi, mi trovo sempre più in difficoltà a scrivere sulla carta, perché lo spazio è definito, non si riescono a spiegare le parole. Quando ci sono parole nuove, tipo queste, piuttosto che le parole in inglese, perché gli inglesismi nelle cose di cui scrivo io sono tantissimi, perché internet stessa è una parola... nata prima in inglese, e ogni volta mi tocca mettere tra parentesi la spiegazione e la traduzione, perché su carta non è accettata la nuova parola, cioè non possiamo scrivere le nuove parole sul giornale, ancora non è passata questa idea, e quindi è complicato riuscire a esprimere così in sintesi questi concetti. Andrea, in sintesi, per salutarci, hai una parola preferita? Perché ogni scrittore ha una parola preferita. Una nuova che è uscita da una scuola alberghiera addirittura, sì, che è venuta per caso, una ragazza inciampata nella parola insegnamento, mi ha parlato di insognamento, che mi piace tantissimo. E vuole dire tutto. Un grazie ai nostri ospiti, Andrea Valente, Anna Masero, i ragazzi delle Bluckstock Village, i ragazzi dell'Istituto Professionale Giulio di Torino, un applauso, fatevelo. E grazie a voi, tutta la squadra che mi ha dato una mano per questa puntata, Guido Scotti, Pietro Lacorte, Davide Ciocia, questa è Radio 24, grazie ancora, noi ci si ritrova qua sabato prossimo con L'Altra Europa, ciao!